Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo i compiti, la cosa più bella che facevo era giocare con le bambole insieme alle mie due amiche del cuore. Avevamo vestitini specifici per queste bambole in base alla disponibilità economica delle famiglie. Nel mio caso mi dovevo accontentare veramente di poco. Le mie amiche erano più fortunate. Mi chiamo Rosa, vivo a Lodi, mi occupo di una serie di attività legate al mondo della comunicazione visiva. Io ho una bambina e sono felicemente sposata. Troppo entusiasta di me, non vengo più, mamma. No lettere, notti a leccare i telefoni, novembre. Nostalgico, bacerò un astronauta per avere un contatto con le stelle, con l'assenza di gravità, per sentirmi più lontano da voi, dal traffico, da me. Succede ogni tanto, esattamente il mercoledì, ma a caso, senza un appuntamento, non il primo o l'ultimo mercoledì del mese come succede con i mercatini dell'antiquariato. Ogni tanto però, il mercoledì, facciamo un vivo, un live musicale qui, a Voi Siete Qui, a Radio 24, l'unica talk radio rock di tutto il panorama delle radio italiane. Oggi, dal vivo, Di Martino. Buongiorno Antonio, buongiorno Angelo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Antonio sta suonando la chitarra, la sentite questa qui? Angelo invece sta suonando un iPad, lo sentite? È questo qui. Wow. Esattamente, ci spieghi che cos'è, Angelo, quella roba? No, è semplicemente un'applicazione con un sintetizzatore. Avete dei concerti da fare in giro da queste parti? Se, cioè, siete a Milano per un motivo? Sì, sì, domani suoniamo al Bico, che è un locale di Milano. Però mi dicevi, Antonio, che siete in giro, voi suonate tantissimo. Sì, sì, sono 2 anni quasi che siamo in giro praticamente in maniera ininterrotta. Infatti siamo stanchi, cioè, guarda, guardaci in faccia. Vedo le occhiaie, guarda. Facciamo un attimo la storia dei Di Martino in pochissimo. Allora, voi siete, diciamo, voi, nel senso, tu sei Antonio e ti chiami Di, sì, staccato Martino, e la band si chiama Di Martino, fino a qua ci siamo. Antonio, tu sei l'ideatore, sei quello che l'ha creata, quello che l'ha messa insieme. Sì, sì. Sì. Non sei convintissimo, ma secondo me possiamo farci un pensierino. Mi piace l'idea che Di Martino fosse un progetto cantautoriale allargato, no? Ok. E poi ho detto spesso che, diciamo, è un progetto cantautoriale a convenienza. Cioè, certe volte quando voglio stare quando solo serve, dico che sono un cantautore, quando mi serve la band dico che siamo una band. Con felicità di Angelo, è giusto. È un opportunista. È giusto che la terza parte del... Giusto corrente. Giusto, sì. che non è qui con noi. Sì. Però facciamo un altro passo indietro. Voi avete il botto quando? Se c'è già stato il botto. Ma stiamo lì con l'orecchio, no? Aspettando. Per capire quando parte. Sì, in realtà. Cioè, quando è che però avete cominciato a suonare, guarda, in giro, che la gente vi riconosceva, che avete un vostro pubblico, no? Nel senso che quando è che si capisce che uno può vivere della musica che fa? Quando c'è della gente che lo riconosce e compra i dischi? Quando c'è della gente che paga un biglietto per venirti a sentire. Più che comprare i dischi? Sì, ormai sì, sono le persone che vengono ai tuoi concerti che fanno... Diciamo che fanno poco a poco la tua carriera, in un certo senso. E avete un'idea di quante persone siano? So che non è Twitter, non avete... Tra l'altro Antonio continuava a ricevere messaggi su Instagram e Twitter dicendo che gli piaceva le foto che aveva pubblicato. Non so se aveva a che fare con lo studio. Tra l'altro, se volete vederli, andate sul nostro profilo Facebook o Twitter. Ci sono le foto delle prove e dei live. Dicevamo, li conoscete il vostro pubblico? Sapete quanti sono? Chi sono? Guarda, quanti di preciso no. Però mi piace quando vedo gente di età diversa, no? alla ai live, quindi quando vedo anche persone anziane ogni tanto mi per capita. Per anziane intendi over dai, 60? Over 70. Diciamo. Over 70? Sì, ogni tanto mi è capitato di vedere dei settantenni e questa cosa mi ha riempito molto, molto il cuore, come quando vedo per esempio i bambini ogni tanto ai miei concerti. Per esempio una delle fan più accanite mie è mia nipote che ha 10 anni. Però non vale perché la nipote, nipote sì, c'è un legame di sangue che... Sì, che... ma lei conosce tutte le parole. Cioè... La prima volta che tu hai visto uno che cantava una tua canzone, tu te lo ricordi quando è stato? Sì, me lo ricordo benissimo. Dove eri? Ma è stato prima di questa cosa di Martina. Okay. Quando avevo un altro gruppo, si chiamano Famelica, avevo scritto una canzone così nella mia stanza, però l'avevo suonata altre volte al vivo, quindi c'era questa persona che l'aveva quindi imparata in un certo senso. E quando sono andato a suonare in un paese sperduto nella provincia di Catania, una cosa del genere, ho visto questa persona che mi cantava tutto il testo a memoria perché se l'ha registrato, no? E qua, da quel momento, diciamo, ho capito che quella cosa lì era una cosa che mi piaceva. Cioè il fatto che... Che qualcuno sapesse... Sì, delle parole che io avevo scritto, avevo metabolizzato e me le sputasse in faccia così. Oggi continuiamo ovviamente, anche se abbiamo Di Martino live, continuiamo a raccontare storie. La storia che raccontiamo oggi è quella di Rosa, che parla di una cosa molto particolare. Ed è le persone che in qualche modo ci hanno reso felici, anche per un piccolo momento della nostra vita, e però non lo sanno, lo hanno fatto a loro insaputa. 349-238-6666. Intanto Paolo da Biella scrive: finalmente una sorpresa folgorante, alcuni brani di Di Martino sono veramente forti. Forti, wow. Forte come definizione, non si capisce esattamente cosa vuol dire. C'è anche un altro messaggio: mamma mia, sono tornati i Flebo Valium Band. Si salvi chi può. Questo lo conoscete? No, sarà... Allora direi che dovete seguire il consiglio che vi ha dato il vostro manager, che prima è arrivato con una merendina, con una fiesta per tutti quanti, dicendo altrimenti collassano in diretta. Antonio non l'ha ancora mangiata tutta e quindi mi sa che collasserò. Non avrà tempo di farlo, perché adesso cominciamo a leggere la storia di Rosa e poi torniamo con i Di Martino live. È molto semplice la storia che vorrei raccontare, ma così semplice che ogni volta che ci penso trovo disarmante l'emozione che suscita in me. Si tratta di una piccola storia, ambientata in una normalissima via di Milano, la Milano di 40 anni fa, quando ancora c'era la nebbia e le stufe andavano a cherosene. Eravamo una famiglia modesta, ma veramente modesta. Come un po' tutte le famiglie in quegli anni, insomma. C'erano gli operai, i muratori, quelli che venivano dal meridione e i padroni delle fabbriche. Abbiamo sempre vissuto a Milano. I miei genitori erano pugliesi, vivevano a Milano da qualche anno e dopo qualche anno sono nata io. E mio papà faceva il muratore e mia mamma faceva la casalinga. Dopo i compiti, la cosa più bella che facevo era giocare sui gradini delle scale del mio palazzo con le bambole, insieme alle mie due amiche del cuore. Chi più e chi meno avevamo vestitini specifici per queste bambole in base alla disponibilità economica delle famiglie. Nel mio caso mi dovevo accontentare veramente di poco, le mie amichette invece erano più fortunate. Spesso pioveva e l'odore della pioggia sull'asfalto si sentiva anche nella tromba delle scale. Rendeva l'atmosfera ancora più intima, protetta, quasi uterina. Nei nostri giochi, come per tutte le bambine, le nostre bamboline vivevano una vita propria, in una dimensione pulita, perfetta, rosea. In un pomeriggio di sole, i nostri giochi trovarono una location esterna, un enorme giardino, che poi, in realtà, era un piccolo davanzale, il davanzale di un finestrone di un laboratorio artigianale, interrato. Ma attenzione, non un laboratorio qualsiasi, un laboratorio tessile. Penso fornissero materiali alle mercerie. Producevano nastrini, passamanerie, pizzetti e merletti di ogni tipo, di ogni colore e di ogni forma. Le operaie che ci lavoravano ci regalarono dei sacchetti pieni zeppi di scarti di lavorazione. C'erano nastrini colorati, luccicanti, altri di seta, molti pizzetti, tulle e stoffe pregiate. Non so se le mie compagne di gioco ricordano questo momento. Io so che non lo dimenticherò mai. Provai un senso di gioia così intenso che i brividi coinvolsero tutte le parti del mio corpo. Mi sembrava di essere la bambina più fortunata e ricca del mondo. Con tutto questo tesoro confezionai con le mie manine goffe decine di vestiti. Le mie bambole cambiavano di ruolo spessissimo. Si trasformavano in un attimo in principesse, duchesse, regine. Davano consigli ai re di turno. Sorseggiavano tè in compagnia di duchi. Partecipavano ai balli di corte. Insomma, erano veramente molto impegnate. Non ebbi mai, però, il coraggio di andare ad abbracciare quelle operaie. Mi vergognavo. Mi limitavo a passare davanti al finestrone ogni mattina e ad alzare la mano in un gesto di saluto. Non le ho mai conosciute, le ho sempre osservate durante il loro lavoro e le ho sempre salutate prima di andare a scuola. Poi ero veramente piccola perché avevo 8-9 anni, per cui per me era molto difficile comunque conoscere così, insomma andare a cercare di conoscere le persone. Il fatto è che ci sono persone che non avranno mai la consapevolezza che un loro gesto ha potuto cambiare il corso della vita di qualcuno o, come nel mio caso, ha potuto regalare una gioia immensa. Ogni tanto, ancora adesso, nella scatola di cucito di mia mamma trovo qualche pezzetto di nastrino o qualche pizzo. Mi commuovo sempre a vederli lì, arrotolati con cura. Quelle operaie meriterebbero di saperlo. Sarebbe bello che ogni tanto a tutti noi arrivasse una raccomandata senza mittente, con elencate tutte le buone azioni fatte inconsapevolmente. Così, giusto per regolarsi. Parto mentre tutti dormono, io parto presto, calendari appesi sul soffitto, niente, niente. Quante sono le persone di cui ci ricordiamo, magari senza nemmeno conoscerle, solo perché sono coinvolte in qualche episodio fondamentale per noi? Persone a cui non siamo mai riusciti a dire quanto è stato prezioso quel momento che abbiamo condiviso. Si ha sempre un po' di pudore a mostrarsi per quello che si è. Ci sentiamo un po' scemi a emozionarci per episodi insignificanti, come se capitasse soltanto a noi. Ci sentiamo patetici, sentimentali. Solo quando ci accorgiamo che succede a tutti di avere delle debolezze e momenti patetici, ci facciamo la pace e prestiamo il fianco all'emozione. C'è un dettaglio che ha determinato il mio futuro. Ed è stato, tra gli altri, una sera di settembre di tanti anni fa. Quell'anno avevamo finito il liceo e io e Mauro avevamo deciso di fare provini nelle scuole di teatro di Milano, alla Paolo Grassi, lui, e all'Accademia dei Filodrammatici io. Tutti e due dovevamo preparare un monologo, un dialogo, una poesia e una canzone. Finita l'estate, per imparare a memoria i nostri pezzi, eravamo andati in una casa di un'amica di mia mamma, in Liguria, per una settimana. Il primo giorno abbiamo fatto la spesa e il programma della settimana. Dal secondo al quinto giorno ci saremmo aiutati sui pezzi. Io aiutavo lui, lui aiutava me. Il sesto giorno varie ed eventuali, il settimo giorno riposo. Siamo arrivati all'ultimo giorno con la memoria appiccicata del dialogo quando ci siamo accorti che nel nostro programma ci eravamo completamente dimenticati il monologo. Il pezzo forte, quello che sicuramente ci avrebbero chiesto. A quel punto avevamo ancora il settimo giorno a disposizione. Facendo uno sgarro al programma invece che riposarci, avremmo potuto studiare il monologo. E sul momento la soluzione migliore che ci venne fu quella di uscire a mangiarci un gelato. A Moneglia, a fine settembre, non c'era quasi più nessuno quella sera. Nella piazza c'era un concerto di un gruppo di quelli che girano d'estate nelle sagre. Il cantante raccontava barzellette e chiedeva al pubblico i titoli delle canzoni da cantare. Un titolo dopo l'altro era riuscito a coinvolgere tutti quelli della piazza, spaziando su tutto il repertorio pop degli anni, dalla Donna Cannone a Losing My Religion. Quando non sapeva le parole, faceva un vocalizzo, proprio come facciamo tutti quando non sappiamo le parole di una canzone. E più andava avanti la serata, e più era evidente che questo non sapeva una canzone che fosse una. Eppure si divertiva, non aveva nessun imbarazzo. Rideva di se stesso e noi ridevamo con lui. Quel cantante, davanti a poche persone, quel sabato di fine estate, improvvisando canzoni che non sapeva, sembrava dire proprio a noi due che c'è di peggio di non sapere la memoria. Ad esempio, non divertirsi in quello che stai facendo. È peggio, anche se lo si sta facendo a fine estate, davanti a un pubblico distratto. Ecco, quel cantante io non l'ho più rivisto. Ma se dovessi scegliere il destinatario della mia raccomandata senza mittente, come dice Rosa, sceglierei lui. Ho visto Carlo. Era vestito da coniglio, lavorava al parco giochi domenica sera. Distribuiva palloncini ai bambini e alle mamme divorziate da poco più di un'ora. M'ha detto che non parte più per il Giappone, che la pesca del tonno quest'anno è andata male. Male, ma per me lui ha paura degli aerei. Le 16:23 minuti, questa è Radio 24, voi siete qui dal vivo insieme a Di Martino. Arrivano i messaggi, Fabio che dice: grandi Di Martino, mitici. Mitici era dall'84, che non lo sentivo dire. Dagli 883. Anche se l'SM58 davanti alla chitarra non si può sentire, che non sa cosa faccia hanno riferimento. Hanno ragione. Fanno riferimento al microfono, forse è giusto. È il microfono davanti alla chitarra, vabbè, qui c'è del nerdismo ovviamente. Dello sperimentalismo, anche l'iPad. Luca scrive: Di Martino, che piacevole sorpresa. Quando è in Toscana, seguo sempre i suoi live, anche alla sagra della zuppa, che lui dovrebbe ricordare per gli effetti. Per gli effetti della zuppa. Non so, Antonio. Sì, perché la zuppa ha fatto praticamente una specie di era una porzione magica in realtà. Ma stai parlando della stessa sagra? Cioè, sì. Ah, hai capito di cosa sta parlando. Si è fatto degli effetti, diciamo, al mio stomaco. Va bene, non andiamo oltre. Che sagra era? La sagra? Dove si trovava? Era a Fucecchio. No, era a Fucecchio. Era vicino Firenze, diciamo. Ok, diciamo, questi sono gli effetti dei tour per cui siete in giro spesso e quindi non sapete più dove finite. Qual è stato il posto più assurdo dove avete suonato? Vediamo se è lo stesso. Per me è un paese in provincia di Reggio Calabria, si chiama Pentedattilo. Pentedattilo è un paese con un abitante soltanto. Tutti gli ascoltatori di Pentedattilo, l'ascoltatore di Pentedattilo sarà contento. Ma è un posto fantastico. Cosa è successo, cioè, a Pentedattilo? È un paese praticamente abbandonato dove c'è un abitante soltanto e fanno un festival del cinema. Chi lo fa? Lui lo fa. Ma scusami, è come se lui invita, no? Come vive? Come vive questo signore? È un pittore. Ma che storia fantastica. Se qualcuno conosce questo pittore, vi prego, voi siete qui, @radio24.it. C'è qualcuno che dice: ma che non ascolto mai Radio 24 perché è altamente soporifera, ma oggi faccio un'eccezione per Di Martino. No Autobus, acustica è bellissima. Bravi ragazzi, Angela di Monopoli. Sentite, la vostra vita in qualche modo è cambiata, no? Da quando avete cominciato, cioè, immagino non abbiate fatto i soldi, però il vostro quotidiano è cambiato. Voi facevate qualcosa, studiavate, lavoravate? Ma in realtà io ho sempre suonato. Mi sono laureato un paio di anni fa, però. In che cosa? Mi sono laureato in lettere. In lettere, perfetto. Sì. Giustamente, non in ingegneria uno si laurea, anche se ci sarebbe piaciuto. Quindi di fatto hai sempre suonato. Sì. Però da quando avete cominciato a fare tournée, ad avere dei fan, cosa hanno fatto di assurdo i fan per voi? C'è qualcuno? Niente. Perché avete fan morbidi. L'ultima cosa che ci è successa è carina, una poesia. C'è una ragazza l'altra volta che ci ha dato praticamente a tutte e tre una lettera ciascuno. Mm-hmm. Una lettera d'amore ciascuno. Nel senso che era innamorata ciascuno di noi. Aveva innamorata di una cosa diversa di ognuno di noi, quindi non so come, non ti dico com'è finita perché non voglio saperlo. Invece ditemi, diciamo, una delle cose buone di fare questo mestiere è che a un certo punto incontri, per esempio a me è capitato quando hanno cominciato a chiamarmi per, magari, che so io, moderare degli incontri o fare delle cose con qualcun altro, e dicevo: ma che figata quello lì, leggevo i suoi libri oppure lo vedevo al cinema e adesso ci sono vicino sul palco, no? Poi, e ti fai un'idea anche delle persone che di solito leggi o vedi. Qual è il più figo che avete conosciuto, che avete detto: vabbè, questo è veramente un figo? Più figo di tutti proprio, che dici? Ci abbiamo conosciuto. Sì, ci avete fatto. Guarda, Mario Venuti, per esempio, che è Mario Venuti, che è catanese, vero? Catanese, delle sì. Parti vostre. E questa sera abbiamo fatto un po' di concerti. Che c'è una persona, secondo me, fantastica. A parte ha scritto grandissime canzoni. E soprattutto artisticamente non immaginavo che aveva scritto questa quantità di singoli assurdi anche per altri. Uh-huh. E quella è una cosa che mi ha sconvolto. Antonio, invece prima ti chiedo fuori onda, tu non l'avrei voluto dire in diretta, invece adesso lo diciamo, mi raccontavi che tu oltre a questo fai il paroliere, no? Come si dice, l'autore. Sì. Scrivi sì. Delle canzoni e ti capita di scrivere un po' per chiunque. Sì. Mi dicevi tipo gente di X Factor. Adesso voi avete sentito il pezzo di Di Martino e poi dice: in che senso X Factor? Intanto continuano ad arrivare dei like su Instagram di Antonio Di Martino sul suo iPhone, tipo, che so io, per Chiara della Vodafone, della team, vabbè. No, di in realtà ancora non ho scritto nulla perché da poco sto facendo okay. Questa cosa, quindi. Ma ti danno, come succede? Ti danno un tema o ti dicono: vai, scrivi quello che vuoi? Mi dicono: vai, e poi. Però ti dicono per chi sarà, per un sì, uomo, certo, per una donna. Mi dicono per chi sarà. E tu a quel punto ti senti tutti i pezzi suoi? No, in realtà, guarda, per me è un'esperienza nuovissima. Okay. Cioè, nel senso, in questi giorni, proprio in questi giorni, sto cercando di scrivere. Ah, quindi, ok. Dici due parole della canzone. Oh, non lo so. Il tema. Stai bene su di me come un vestito. Fantastico, sono le 16:28 minuti, questa è sempre Radio 24. Stiamo chiudendo e quindi dal vivo Di Martino ci fanno l'ultimo pezzo di oggi e poi ci salutiamo. Se non fossimo noi due, saremmo altri due. Felici come valigie cadute da un aereo di linea. Felici come animali d'appartamento. Dal vivo un iPad e una chitarra erano i Di Martino, che ringrazio, grazie Antonio, grazie a te, Angelo, e vi possiamo sentire in giro tra pochi giorni, lo sì, dicevamo, domani. Siamo in tour fino al 30 novembre. C'è un sito ovviamente. C'è quindi. Un sito, una pagina Facebook Di Martino tutto attaccato. Manco a dirlo, trovate tutto lì. Tutto questo diventerà anche un video simile a quello che è appena uscito, abbiamo appena pubblicato, dei Perturbazione, che trovate sui nostri social, a firma di Marco Ligabue che è qui davanti a me. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, oltre ad Antonio Di Martino e ad Angelo, ringrazio Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Mauro Pescio. Ringrazio soprattutto Rosa, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Alessandro Lazzarini, vivo sul Diate. La storia di domani è la mia e parla della più bella immersione che io abbia mai fatto. Questa è la mia storia e io sono qui. Franco Rosso, la vacanza con qualcosa in più. Vi ha presentato...